I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Riprendiamo una pratica che avevamo assunto tempo fa e che poi per vicissitudini varie, impegni politici, avevamo sospeso, ma che riteniamo quanto mai importante, cioè quella di riflettere fra di noi e con voi a voce alta, come stiamo facendo adesso, insomma, su alcuni argomenti fondanti del fare femminista e politico. Abbiamo deciso di riprendere facendoci la domanda che è contenuta anche nel nostro ultimo libro, Femminismo paradigma della violenza non violenza, e che è: che cos'è per te la militanza? Perché, soprattutto per un motivo, insomma, perché stiamo attraversando un periodo di cambiamento, di grande cambiamento, un cambiamento epocale. Il neoliberismo sta impostando la ristrutturazione economica, politica e quindi anche sociale della nostra vita. E come femministe intendiamo non solo prendere parola, ma essere parte attiva contro questo stato di cose. Partiamo da una considerazione sulle parole, no? Ormai si usa dappertutto il termine attivista. Non so se ci avete fatto caso, ma è un bel po' che questa cosa sta andando avanti. Il termine attivista, però, anche nel femminismo si parla di ragazze, di amiche, e questi sono i nomi che vanno per la maggiore. Però anche il termine femminista viene usato pochissimo, anzi troppo spesso è usato a sproposito per far passare politiche funzionali al potere stesso. Però sempre di più il termine attivista definisce una collocazione politica, una non collocazione politica, cioè quasi un generico darsi da fare di gruppo, un generico impegno nel sociale, che ci ricorda tantissimo il volontariato, no? Il volontariato di cattolica memoria, che poi però è stato inglobato ben bene dal neoliberismo e l'ha trasformato in uno sfruttamento sociale a tutto campo, in un lavoro non pagato, in un'attività gratuita che praticamente fa perno sulla voglia delle persone di dedicarsi a qualche cosa di utile. E quindi il termine attivista richiama proprio questo, soprattutto poi perché il termine compagna è caduto assolutamente in disgrazia. Ma c'è un motivo, perché il termine compagna esprime immediatamente una collocazione di campo, una collocazione politica, anche se non specifica, perché poi il termine compagna andrebbe declinato in infiniti modi, però comunque una collocazione di campo. E questo è proprio quello che non vogliono da noi, no? Allora, partendo da qui, da questa spoliticizzazione già dei nomi che ci definiscono o vorrebbero definirci, dobbiamo fare delle precisazioni noi come femministe, che non è l'appartenenza al genere femminile che ci definisce, bensì è l'oppressione che subiamo e che si caratterizza in questo momento storico neoliberista capitalista con connotati precisi, cioè attraverso la strumentalizzazione della violenza su di noi e poi con i percorsi emancipatori, meramente emancipatori, portati avanti da donne che si prestano, consapevolmente o meno, a perpetuare l'oppressione delle altre donne, sulle altre donne e su tutti gli oppressi. Allora, qui bisognerebbe aprire una parentesi che però citiamo soltanto perché vorremmo dedicare un confronto anche a questo, cioè al termine sorellanza, no? Che il termine sorellanza anche non ci definisce più, perché mentre è stato tanto importante negli anni 70, quando ci siamo scoperte tutte oppresse come donne, adesso è evidente, lo era anche quella volta, ma è evidente che il femminismo è attraversato prepotentemente dalla classe e quindi ci sono donne che hanno scelto di stare da un'altra parte. e questo andrebbe definito e chiarito in partenza. Però su questo vorremmo tornare e fare un colloquio specifico. No, invece, una cosa che riguarda la militanza e che riteniamo molto importante, proprio perché noi abbiamo sempre detto che il privato è politico, no? Che il nostro privato è politico, non come scelta individuale, ma proprio come consapevolezza collettiva che quello che succede a noi è frutto di un'oppressione generale. Proprio per questo, vorremmo riflettere con noi sul problema della militanza perché racchiude una problematica di fondo ben più nascosta e ben più importante, che è quella della nostra dei condizionamenti che il neoliberismo ha portato nella nostra vita privata, personale e anche pubblica, nel nostro modo di essere, nel nostro modo di fare. Cioè, quanto il mondo neoliberista abbia metabolizzato il nostro modo di pensare. Facciamo alcuni esempi tanto per rendere il discorso più chiaro. Volenti o nolenti, anche senza un'esplicita adesione, però per esempio abbiamo introiettato tantissimo la meritocrazia, no? Il termine meritocrazia ricorre continuamente, noi magari non siamo d'accordo assolutamente, però poi lo subiamo nel privato, lo subiamo nel pubblico, lo subiamo nei percorsi di lavoro, no? E spessissimo ci succede anche di propagandarlo, anche non volendo, attraverso proprio i meccanismi lavorativi. Poi, per esempio, è chiaro un'altra strutturazione del nostro essere che sono riuscita a portare a termine è quella del concetto di riforma e riformismo. Cioè, loro il potere non intende la riforma e il riformismo come miglioramento della qualità della vita, bensì come trasformazione della condizione materiale in un processo negativo, no? E invece magari si continua a usare questo termine in maniera sbagliata o comunque funzionale al potere. Poi, per esempio, non usiamo più la parola comunista, non usiamo più la parola socialista per descrivere i movimenti, ma sempre movimenti di diritti, sono movimenti cause sociali, no? Il termine ideologico che colloca una lotta non lo usiamo più. E allora, uno dei concetti fondamentali è proprio ripartire da qua, quanto noi siamo condizionate dal pensiero del nemico, cioè quanto il fatto stesso che noi ci chiamiamo, cioè che noi cerchiamo di non farlo, non siamo attiviste, non lo usiamo mai come termine, siamo compagne, però come mai questo termine va per la maggiore? Va per la maggiore perché la spoliticizzazione che ha tentato il neoliberismo è andata in porto, cioè non ci si colloca più subito politicamente, ma è sempre un riferirsi a vaghi movimenti di opinione culturali, nello stesso femminismo, per esempio, proprio nel momento in cui usa la parola amica, sorella e non compagna, si sottrae a quella che è che dovrebbe essere necessariamente la definizione di chi è all'interno di un discorso di potere, chi è all'esterno di un discorso di potere, quindi del tracciamento della discriminante di classe. E questo qui non viene vissuto così, il termine attivista ormai viene vissuto in maniera normale, la normalità è chiamarsi attiviste. Allora, siccome noi siamo abituati a partire da noi, passo la parola a Noemi perché Lei è più abituata ancora di me a partire da noi, quindi le passo volentieri la parola. Grazie. Allora, sì, ho fatto delle riflessioni in realtà partendo da quella che è la nostra condizione sulla militanza, un po' appunto dopo aver fatto ben due iniziative che riguardavano questo argomento ed aver pubblicato anche dei pezzi comunque sul libro. E, però effettivamente ci sono state, visto che è un argomento molto ampio, ci sono state delle cose che sono successe, diciamo, in questo periodo di mobilitazioni con l'assemblea, no? Green Pass Roma e poi altre, adesso anche tutto quello che si muove a supporto della lotta di Alfredo Cospito contro il 41 bis e l'ostatività, che ci ha fatto riflettere di nuovo, perché effettivamente purtroppo negli anni del Covid, diciamo che la pratica militante ha risentito ovviamente di spazio in cui esprimersi e quindi tante cose sono state messe, diciamo, a dormire e ora un po', per fortuna, qualcosa si comincia di nuovo a muovere, per cui ovviamente vorremmo far tesoro, insomma, della nostra analisi. Per migliorare la nostra militanza, per arrivare al dunque, quindi che cos'è la militanza? Per noi è anche una linea, una direzione che percorriamo, che è coerente ovviamente col nostro pensiero politico. Serve a costruire strumenti e quindi per questo è importante parlarne e discutere, per far sì che questi strumenti siano sempre più forti e efficaci nel loro utilizzo. Un esempio che mi viene personale su questo tipo di militanza e su come la militanza possa essere uno strumento valido in ogni ambito di questa società di controllo in cui viviamo è, per esempio, quando mio figlio andava a scuola durante il Covid ho sofferto moltissimo di stare tanto a contatto con realtà che si erano completamente piegate, messe supine rispetto a quello che erano le richieste del governo, comunque del sistema politico, e, con il lockdown, con le distanze sociali, con tutte le cose, dalle semplici mani disinfettate, che insomma erano la cosa minore del problema in realtà, a cose più gravi, appunto come il lockdown o come appunto il coprifuoco. E molti di loro avevano questo atteggiamento che era per il nostro bene, erano convinti di questa cosa e devo dire che la lontananza dovuta appunto a tutte queste misure di controllo dai miei ambienti militanti, dalle mie compagne, mi ha fatto molto pesare questa situazione, però mi sono resa conto poi dopo, nonostante le ferite, nonostante la gravità della situazione, che comunque gli strumenti politici che avevo funzionavano, hanno funzionato, perché comunque nonostante come tante di noi che ci siamo depresse, ci siamo buttate giù, ci sentivamo oppresse, chiuse e effettivamente molte di noi hanno subito questa situazione, però quegli strumenti sono stati fondanti per non perdere il punto, l'obiettivo, per non perdere i punti di vista, per non perdere le proprie parole d'ordine, e nonostante ovviamente eravamo in piena contraddizione con quello che poi la società chiedeva, però hanno funzionato, quindi in qualche modo, sembra una battuta, però effettivamente poi gli strumenti militanti del femminismo, nel mio caso specifico, sono molto utili e sono meglio della terapia, insomma, cioè, sono, alla fine Certo. ti solidificano, ti rendono più solida. E, Un'altra, sempre appunto un po' un fiume in piena di pensieri rispetto a questa cosa, è per esempio il tipo di militanza, quindi alcuni di noi considerano la militanza come qualcosa che è quasi un lavoro, no? E però non è per tutti una cosa possibile e bisogna anche stare molto attenti a considerare così la militanza, perché ovviamente deve essere una scelta personale, però non può diventare nemmeno il metro di giudizio che poi noi compagni e noi compagni prendiamo e utilizziamo contro gli altri per giudicarli su come si comportano. Intanto perché si rischia di fare i buoni e i cattivi anche noi con definizioni differenti. E poi appunto perché non viviamo in una società molto semplice dove la militanza è facile, cioè nel senso qua, appunto come diceva Elisabetta nell'introduzione, partiamo da una situazione in cui ci hanno veramente tolto tutto, ormai non c'è più margine di manovra. Hanno completamente colonizzato e sussunto tutto ciò che era, diciamo, dell'ambito compagnesco e lo ha preso il neoliberismo e quindi ci troviamo senza terra sotto i piedi. Questo è vero. Tanto è vero che una nota al volo, non per interromperti, che il termine stesso di militanza, usarlo adesso è difficoltoso, perché mentre noi stiamo parlando qua, magari qualcuna si chiederà, ma io non sono d'accordo col termine militanza, il termine militanza significa militare, il termine militanza è una cosa impositiva nel senso di imporre qualcosa a qualcuno, quindi anche questo è un problema. Vabbè, scusa, non volevo No, no, no, interromperti. no, però è giusto. E questo me l'ha fatto pensare perché adesso mi viene un nuovo esempio. Allora, noi abitiamo a Roma, che è una città terribile per quanto riguarda i mezzi di trasporto. A me in continuazione una serie di compagni e compagne mi dice: perché non prendi la bici se io mi lamento del traffico? Ma così, cioè, nel senso, veramente come il vecchio signore che sta davanti al cantiere a lamentarsi, in quel modo lì, semplicemente perché la mia vita, purtroppo, come la vita di tutte noi, spesso è in balia del traffico di questa città. Che è famosa per questo, tra l'altro, e mi viene risposto: prendi la bici. Anche lì sono cavoli, cioè è una scelta personale prendere la bici, ma non penso che la soluzione al traffico di Roma o a qualsiasi altra cosa possa essere la bici. Anche perché mi mette in condizione di dover spiegare la mia condizione fisica, che non è visibile perché sembro perfettamente in grado di prendere una bici perché la pubalgia non si vede, però c'è sempre questa tendenza di essere un po' moraleggianti nelle opzioni che si propongono, cioè il bravo militante, e questo lo vediamo anche quando la controparte ci racconta: ah, vedi, quello lì non è un bravo compagno perché si è messo le Nike o cose del genere, no? È come se ci fosse un manuale della giovane marmotta dove ci sono le regole, il vestiario, cosa puoi mangiare, cosa non puoi mangiare, e se non sei vegano non va bene. Però devono essere scelte personali. Ovviamente io assolutamente non ho nulla contro il veganesimo, non ho nulla contro le bici, non ho nulla contro chi compra, fa la spesa sfusa. Però intanto non pensiamo che queste siano realmente dei meccanismi che creano delle crepe all'interno di questo sistema, e anzi sono assolutamente in linea col sistema, perché è vero che esiste un sistema brutto, cattivo e distruttivo, però esiste pure una parte del neoliberismo che invece è per i diritti sociali, è pinkwashing, greenwashing e tutto il resto, tutti i washing che ci sono, Li usa proprio. e li usa lui. Lui ti propone, guarda Plenitude, guarda questo, guarda quell'altra pubblicità che ti propone, c'ha la stessa Eni che distrugge continenti, è quella che ti propone, però adesso è stata ripulita e ti propone Sì, l'energia green. esatto, E quindi insomma anche lì perfetto. bisogna stare attenti, per cui dobbiamo evitare anche noi compagni di avere questo giudizio che non è più politico ma è morale sul proprio personale comportamento. E quindi appunto fare la militanza 7 giorni su 7 è molto faticosa. Io per una parte della mia vita tutta la mia vita girava intorno a quello. E non è che sto qui a dire, oh, Dio, me ne pento, non avrei dovuto fare così. No, assolutamente felice di averlo fatto, nonostante errori, sbagli e quello che c'era. Però mi sono resa conto, ragionandoci bene, che quel genere di militanza mi faceva spesso perdere punti di vista importanti, cioè tipo chi è il mio nemico, contro chi sto combattendo, qual è il limite da non sorpassare, cioè nel senso il compromesso fino a quando va bene e quando invece rischia di compromettere proprio il mio pensiero politico. Qual è il mio ideale politico, cioè come mi definisco? E questo è avvenuto anche perché ultimamente abbiamo riflettuto sul fatto che l'essere femminista non è un optional, cioè non è un accessorio che si aggiunge alle altre definizioni politiche che ci si dà, ma per noi è, non so, è il midollo osseo, non so, è quello che ci tiene in piedi, è l'essere femministe. Nel nostro caso essere femministe materialiste, però comunque è quello che, non so, che ci definisce. Poi ognuna di noi può aggiungere altre, appunto, definizioni politiche più specifiche che possono, raccontare meglio il percorso di ognuna di noi, però, siamo femministe. Punto. E abbiamo notato che molto spesso non tutte quante si posizionano in questo modo, per cui hanno una visione che è di altri tipi. E poi arriva il femminismo quando si tratta di questioni legate, diciamo, alle donne o al femminile. Ne parlano come di un valore aggiunto Sì. rispetto a un'altra impostazione di fondo, mentre essere femministe in effetti è una visione a tutto campo, è fondante rispetto all'analisi della realtà e quindi non può essere questo appunto che dicono un valore aggiunto, non puoi essere anarchica, è un valore aggiunto femminista, comunista è un valore aggiunto femminista, cattolica, perché poi c'è anche questo, no? Cattolica è un valore aggiunto femminista, addirittura il femminismo di destra è un valore aggiunto femminista, un posizionamento di destra è un valore aggiunto femminista. No, perché il femminismo non è una sensibilità rispetto ai diritti che le donne devono ottenere. Il femminismo è una visione diversa del mondo, vale a dire una collocazione precisa di genere e di classe, e da questo vengono fuori anche altri corollari, tipo che il femminismo è necessariamente antagonista, è un movimento di liberazione e di uscita da questa società. Tutto il resto può essere altro, può essere emancipazionismo, può essere tutela dei diritti, può essere lotta categoriale, può essere anche lotta, cioè interesse personale. Però non è sicuramente il femminismo di liberazione, non è sicuramente lotta di liberazione. No, no, assolutamente, anche perché se no, soprattutto in questo momento storico, tante modalità che si vedono in giro sarebbero definibili femministe e Certo. invece sono tutt'altro. Anche di questo vorremmo parlare in un'altra Sì, forse è puntata. meglio, non Forse è apriamo meglio, nemmeno non se apriamo apriamo il nemmeno. vaso di Pandora, siamo 4 ore e continuiamo sulla militanza e Dai, che è rivoltiamo. meglio. Che già mi si stanno aprendo degli spunti. E, un altro esempio, ritornando a quello che diceva prima sul volontariato Elisabetta, no? C'è anche questo, che un po' si collega pure al discorso del giudizio troppo moraleggiante, no? Che spesso alcune compagne e compagni rischiano poi di avere nel giudizio della militanza. Per esempio, quella appunto dell'associazionismo che noi riteniamo un po' il male assoluto perché è il modo in cui tanti sono convinti di rompere il sistema di cose. Attraverso appunto l'associazione. Questo non significa che in un momento storico come questo, dove precarietà e disperazione fondamentalmente sono nostre co compagne di viaggio, uno non debba accettare lavori all'interno di associazioni o altro, assolutamente no, del terzo settore, però l'importante è essere consapevoli che quel settore dell'associazionismo, dei diritti umani, dell'aiuto agli immigrati o qualsiasi altro argomento o ambito non sostituisca la militanza, quello è attivismo, quello è qualcosa che puoi fare appunto come diceva Eli per carità personale perché ti dispiace come quando dai l'elemosina o cedi la spesa e cedi la spesa a qualcuno che mendica e ti chiede da mangiare. Quello è un gesto ovviamente che nessuno giudica, però devi essere consapevole che non è che il tozzo di pane è qualcosa che cambierà lo stato delle cose, perché se no siamo fuori. Allora, ritorna al discorso, sono tutti attivisti, nessuno è più militante. Certo. Questo mi fa venire in mente una cosa su cui le compagne scherzano. Almeno tra di noi scherziamo su questa cosa che fa ridere, ma la conoscono tutti e tutte, che sono i punti militanza, i famosi punti Sì, militanza, la patente a la punti patente a punti del della bravo militanza. militante, e tutti scherzano su questa cosa, che è vero, cioè, nel senso fa molto ridere, però molto spesso le pratiche messe in campo fino adesso sembrano delle pratiche appunto dovute, necessarie, preimpostate. Se, che ne so, si scherza spesso sul fatto che magari anche la militanza non deve avere una sua, in qualche modo, logica, razionalità, per cui l'esperienza dovrebbe aiutarci a far sì che ogni volta, andando avanti, noi miglioriamo la pratica politica, la pratica di piazza. E invece molto spesso sbagliamo e incappiamo in degli errori e quindi ovviamente facciamo autocritica scherzando, dicendo abbiamo preso più punti militanza perché, che ne so, ho preso una denuncia, ho preso più punti militanza. Ah, ma ho ribaltato quello, ah, ma ho preso più punti militanza. E quindi è un modo. Non so se qualcuno di voi gioca al fantacalcio o a queste cose qua di punteggi, è più o meno la stessa cosa. Ovviamente non c'è, nessuno fa questa cosa, conta i punti, però fa pensare il parallelo che comunque ci prendiamo in giro su questo. Poi un'altra cosa è quella di. Soprattutto dopo il Covid, no? Con l'assemblea, no, Green Pass Roma ci siamo resi conto che non stiamo proprio tutti dalla stessa parte, o comunque è una parte larga e noi comunque siamo spostati da là, siamo in un altro punto. E poi ti ritrovi magari adesso in situazioni più comuni di nuovo a ricondividere le piazze. E quindi anche questo si dovrebbe far riflettere su che cos'è la militanza, su come essere militanti e un po' a fare autocritica su questo, perché comunque c'è chi ha avallato il pensiero dominante e chi no. E quindi, boh, due domande forse anche rispetto a questo dovremmo porceli. L'ultima cosa che volevo dire così sì, di mie riflessioni sulla militanza è che La militanza è inscindibile dal livello di organizzazione, dal modello di organizzazione. Negli ultimi decenni, mi sembra che si è molto puntato su strutturare l'organizzazione delle cose che facevamo, ma non abbiamo riflettuto davvero nel profondo sulla militanza. Ora, non è che mi voglio prendere il merito, però la coordinamenta è stato l'unico collettivo che io conosco che ha messo in campo la questione della militanza, comunque si è domandata e l'ha messa in discussione, questo già prima del Covid, quindi già prima, diciamo, della distruzione totale da parte della politica. E quindi abbiamo solo ragionato su come ci dovevamo organizzare, come si doveva fare il corteo, che pratiche dovevamo utilizzare, che ne so, bisogna occupare quello stabile, bisogna dare quel segnale, c'è quell'emergenza, c'è quel corteo, c'è quella data. È tutto un po' a rincorrere cose, no? Che erano preimpostate da un calendario che poi a un certo punto non ci rendiamo conto, però è ovvio che quelle situazioni sono situazioni in cui noi ci sentiamo dover manifestare la nostra rabbia, il nostro disappunto e quant'altro, però spesso e volentieri comunque sono date, sono situazioni che calano dall'alto e quindi sono impostate in realtà dal potere, non sono impostate da noi, no? Che ci sta perché il potere è molto forte, quindi È l'agenda che ci è impongono, che un'agenda ci impongono da che... fuori. Sì, e quindi anche lì bisogna stare un po' attenti a seguire il flusso dell'acqua, perché ovviamente poi l'acqua diventa uno tsunami e a quel punto tu non governi più nulla. Quindi bisogna essere anche abbastanza intelligenti nel sapersi muovere, nel saper capire quali sono le priorità, quali sono le co a cosa dare priorità in quel momento. E non bisogna essere troppo rigidi, perché purtroppo viviamo momenti storici che ci costringono a dover muoverci molto e quindi anche ad avere una capacità di Adattamento. adattamento mo molto faticosa. Per cui non essere monolitici aiuta semplicemente il pensiero a muoversi più liberamente, a capire poi le varie situazioni, cosa fare, come fare, cosa sia meglio. L'ultima cosa che mi stavo. Io penso che la militanza debba comunque essere una scelta personale. Il livello di militanza è una scelta personale, che non si possa mai pretendere un livello unico, perché sennò, come diceva Eli, ti trovi appunto a dar ragione a chi dice però la militanza è una cosa militare. No, non è una questione militare, è molto più ampio, come almeno per noi è molto più ampio come Certo. concetto. Però se poi diventa semplicemente che per fare il militante devi, non so, marciare al ghiaccio tutto il giorno, è ovvio che diventa una pretesa inutile che non è, in realtà poi non serve alla causa. Ovviamente ognuno fa quello che vuole, può scegliere di fare quel tipo di vita, però non può essere preteso dalla comunità cioè, che ci circonda. Quindi, insomma, tanto per tirare delle conclusioni, non vogliamo assolutamente, cadere nell'adagio cattolico cambia te stessa per cambiare il mondo. Non è questa, cioè la postura personale è una scelta, ma non è che di per sé può cambiare la postura della società. Allo stesso tempo non vogliamo neanche colpevolizzare le compagne e i compagni, nel senso perché quando uno parla della militanza così, così, così e colà, una che magari non lo fa o che è suonata a lunghezza d'onda, si sente colpevole. Questo già lo fa il sistema, già lo fa il sistema, quindi non vorremmo anche noi impostare un discorso che colpevolizza le compagne e i compagni. Assolutamente no, anche perché già siamo ricattati e giudicati e puniti e bastone e carota tutti i giorni e quindi non è proprio il caso di impostare il discorso sulla militanza così. Per Però l'esercizio di chiarezza politica e di verità politica, questo sicuramente andrebbe fatto. Nel senso che uno dei problemi di chi ha fatto una scelta di campo, di agitarsi, fare politica, di partecipare alle manifestazioni, di fare appunto militanza, è quella di pensare che nel momento in cui va alla manifestazione, nel momento in cui ha partecipato a un evento, ha risolto il problema, cioè si sente a posto con se stessa perché ha partecipato. Io faccio un esempio che mi è capitato in ufficio, negli anni in cui sono stata in ufficio, e che mi ha colpito tantissimo. Cioè, mentre stavo in ufficio, nel lavoro normale di quotidiano, durante le pratiche, le scelte che si fanno anche in ufficio, siccome io facevo parte di un ufficio tecnico e quindi le scelte sulla casa, sugli affitti, su tutto questo mondo. E venivano fatte, chi era impiegato lì o chi lavorava lì o chi faceva parte del gruppo di lavoro, lavorava, basta, no, non dava nessun giudizio di merito e non ti accorgevi neanche di chi poteva essere compagno o compagna. Poi magari li incontravi in piazza a fare la manifestazione. Allora, non è un modo per colpevolizzare appunto le compagne e i compagni che si dovrebbero comportare in un certo modo, però la consapevolezza che le scelte che ci fa fare il capitale tutti i giorni fanno parte del coinvolgimento in cui ci tira dentro e che non basta partecipare alla manifestazione, cioè bisogna anche rendersi conto di quanto noi stesse siamo strumenti dell'impostazione sociale e politica del capitale. Lui ci usa sistematicamente tutti i giorni, se noi non ci poniamo il problema di mettere qualche paletto, di sabotare, o comunque anche di dire come stanno le cose, che è fare un esercizio di verità in questo senso, perché non è che noi dobbiamo rinunciare a lavorare, perché anche questo viene poi viene fuori, cioè che allora se sei contro questo tipo di società, allora non ti devi comprare casa, non devi avere la macchina, non devi gioire o partecipare di certe cose. No, questo è soltanto, come diceva prima Noemi, è soltanto un giudizio moralista. Non è che noi non dobbiamo fare il possibile per salvarci all'interno di questa società, per stare abbastanza bene. Però non ci dobbiamo dimenticare che non vorremmo e non dovremmo essere irretiti nei suoi meccanismi. Cioè, non dobbiamo rinunciare al lavoro perché ritirarci nell'orticello protetto in montagna non serve assolutamente a niente. Però allo stesso tempo possiamo usare il lavoro per boicottare la meritocrazia, per esempio, o comunque dire che non siamo d'accordo sulla meritocrazia, o comunque fare il possibile per smascherare i meccanismi che all'interno dei nostri posti di lavoro portano avanti dei discorsi favorevoli al potere. Non per questo dobbiamo lasciare il lavoro, non per questo dobbiamo ritirarci fuori, anzi, stando dentro forse potremmo cercare di inceppare dei meccanismi e soprattutto anche di inceppare meccanismi di autosabotaggio, no? Cioè, noi, tutto sommato, ci sono delle scelte che sono molto più comode, nel senso mettersi a discutere sul posto di lavoro non è proprio il massimo, mettersi a discutere quando porti a scuola i bambini non è proprio il massimo. No, è faticoso. Mi viene in mente una cosa che c'entra marginalmente e che riguarda però la disobbedienza, perché attualmente una delle cose che noi abbiamo verificato tantissimo è che la maggior parte della gente ha obbedito, specialmente durante la pandemia, a tutta una serie di imposizioni del potere ha obbedito. Allora, in un opuscolo degli anni 70, dei militari, dei proletari in divisa, dei PID, c'è riportata una frase che poi è di Don Milani, figuriamoci, e dice: l'obbedienza non è una virtù, ma la peggiore delle tentazioni. Essere disubbidienti è faticoso, essere ubbidienti è molto più comodo. Quindi a questo punto vi lasciamo anche con questa riflessione, apriamo anche a questa riflessione e vi salutiamo e ci vediamo, ci sentiamo la prossima puntata. Ciao. Ciao!